Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, la nuova poesia di Luca Sardo Giambonino, dal titolo Nuvole Nere. O buon vecchio Giove, non abbandonarmi alle mire dei mortali. La vita mia è dura, e duri sono i momenti che mi tocca attraversare. Appello io faccio al tuo cuore, custodiscimi come fossi in alta rupe, fra le ali tue troverò riparo e anzitutto conforto. Solleva lo spirito mio perché abbattuto dai fragenti della vita. Donami, te ne prego, un sorriso, anche solo ogni tanto, e ti prego, tieni sempre la tua forte mano sul mio capo. Guidami nelle difficoltà e sii luce per gli occhi miei.